questo giovedì 17 maggio. Solo due o tre titoli prima di andare alle notizie. C'è chi sceglie la situazione europea con la BCE, soccorre Atene e i mercati. Questo è il titolo di apertura del Sole 24 Ore. Mentre il Corriere della Sera, bene l'Italia, ora la crescita. La Stampa, Fondo Monetario Italia sulla strada giusta. C'è chi invece sceglie la vicenda Lega, indagato Bossi, truffa allo Stato, così titola Repubblica. Mentre il giornale, il suicidio della Lega, il messaggero Lega, indagati Bossi e figli, il Fatto Quotidiano, i PM riformano la Lega. Questi i maggiori titoli, poi ne vedremo altri, ma voglio non perdere troppo tempo e andare subito a raccontare che cosa succede per esempio in Sicilia, dove si potrebbe fare un appello così: avete delle buone gambe, un buon passo, siete in grado di sostenere dei ritmi di lavoro abbastanza anche energici, siete siciliani? E allora sappiate che potete diventare dipendenti della Regione Sicilia con il ruolo di camminatori. Spese folli in Sicilia, la Regione assume i camminatori, così a pagina 12 della Stampa, ma anche Italia Oggi a pagina 2. La Sicilia cerca camminatori. E che dovranno fare questi camminatori? Lo spiega Mattia Feltri sulla Stampa pagina 12. Già una premessa: al welfare alla siciliana già dà una speranza a tutti. Il modello era emerso certo quando l'assessorato regionale ai beni culturali un mese fa aveva deliberato l'assunzione di 55 addetti alla sorveglianza dei musei palermitani, che si sommano ai circa 1600 custodi già ingaggiati negli anni scorsi. Ma ora arrivano appunto una trentina di posti da commessi di piano. In gergo meno cancelleresco sono i camminatori, cioè prenderanno il loro stipendio per portare nelle stanze di Palazzo d'Orléan, la sede della regione, documenti, cartellette, incartamenti, dossier dal mittente X al destinatario Y, poiché il mittente X e il destinatario Y hanno già il bel loro da fare. Una mansione certamente di responsabilità, ma anche piuttosto suggestiva in tempi di crisi e di internet. La mette proprio sulla mancanza della tecnologia. Anche Italia Oggi: la tecnologia non avanza in Sicilia, la regione cerca camminatori per spostare le pratiche tra gli uffici. Un ruolo importante, faldoni, carte, no? Nell'era del web, nel 2.0, nel 2012, faldoni, carte, documenti spostati da una parte all'altra, impolverati, magari anche il camminatore intanto li spolveri un po' mentre li porta da un ufficio all'altro. La realtà, cari ascoltatori, è che, come raccontano sia sulla Stampa sia su Italia Oggi, sono chiaramente delle infornate di assunzioni, perché casualmente alla regione tra poco scade il mandato, si vota, e quindi Mattia Feltri ricorda per esempio che i dipendenti regionali della regione Sicilia sono 17.200, tanto per fare un paragone con la Lombardia ne ha 3.000, quindi circa più del quintuplo nella regione Sicilia, ma si dice è a statuto speciale. Comunque arrivano i camminatori. Vorrei poi dare spazio a quello che Libero mette oggi in prima pagina, perché ritorna il caso Boffo, prepotentemente sui giornali. Vi ricordate, ex direttore di Avvenire, accusato con una velina pubblicata all'epoca dal giornale di aver avuto una condanna, e questo era vero, ma anche di essere un omosessuale attenzionato dalla polizia. Ci furono le accuse, poi le dimissioni dello stesso Dino Boffo dalla direzione di Avvenire. Ebbene, oggi torna prepotentemente questa vicenda, perché guardate il titolo d'apertura di Libero: le carte segrete del Papa, veleni in Vaticano. Di cosa si tratta? L'editoriale di Maurizio Belpietro. Si tratta del nuovo libro di Gianluigi Nuzzi, di Libero appunto, inviato, che già aveva scritto Vaticano S.P.A. con corollario di polemiche. Ora ha scritto un altro libro, Le lettere di Sua Santità. Racconta Belpietro: non so come Gigi Nuzzi sia riuscito a procurarsi documenti, ma ha tra le mani, e le ha pubblicate in questo libro, una serie di lettere inedite indirizzate al Papa, o al suo segretario padre Georg un carteggio che definire riservato e poco, la cui pubblicazione fa luce su diverse faccende oscure che riguardano il Vaticano. Una di queste è, per esempio, si trova le missive nel libro che Dino Boffo, ex direttore di Avvenire, scrisse a Benedetto XVI per svelare la manina che a suo dire avrebbe consegnato al giornale Le Veline, che nel 2009 il quotidiano usò per attaccarlo e indurlo alle dimissioni. Sono lettere lunghissime, piene di dettagli e allusioni, in cui l'attuale responsabile di TV Sat 2000, cioè Dino Boffo, fa il nome di un collega direttore, cioè Giancarlo Vian, direttore dell'Osservatore Romano, organo ufficiale della Santa Sede. Sarebbe lui ad avere, se non confezionato, recapitato il falso al giornale. Insomma, un'accusa specifica che sarà pubblicata sul libro di Nuzzi, in questa lettera che Dino Boffo ha mandato al Papa e che Nuzzi è riuscito a recuperare non si sa bene come. I segreti di Ratzinger, lo scandalo Boffo è partito dai fedelissimi del Papa, così titola pagina 3 Libero. Nel nuovo libro di Nuzzi il direttore dell'Osservatore Romano Giancarlo Vian è accusato dall'ex direttore di Avvenire di avere confezionato il dossier. Poi Libero all'interno a pagina 3 ricapitola tutta quella vicenda che fece davvero parlare per giorni e giorni, ricordate. Maurizio Belpietro, tra l'altro, nel suo editoriale dice: non so francamente se Dino Boffo, quando accusa il numero uno dell'Osservatore Romano, abbia ragione o no. So certamente che lo ha scritto nella lettera al Papa e a uscita del libro Avvenuta Vian, cioè il direttore dell'Osservatore Romano, farà suonare la sua campana e, per quanto ci riguarda, la registreremo come registriamo quella del suo accusatore. Tornano dunque i veleni del caso Boffo. Il terremoto giudiziario nella Lega con i PM che ora indagano Umberto Bossi, fondatore del partito, per truffa ai danni dello Stato, perché sapeva, secondo l'accusa, che parte dei 18 milioni di euro finivano per pagare le spese personali dei suoi figli Renzo e Riccardo, e anche loro sono indagati. Dunque The Family, come è stato trovato il dossier nelle carte dell'ex tesoriere Belsito, indagata la famiglia Umberto Bossi, i figli Renzo e Riccardo. Parto dalla Padania, che il titolo di apertura lo dedica invece a Maroni, la vera battaglia coi sindaci sul territorio, e in alto invece Lega stretta attorno al Senatur. La sensazione è questa, che sia partito, e secondo alcuni giornali dallo stesso Maroni, l'ordine, come dire, profilo basso, non stiamo intorno appunto a Umberto Bossi. Beh, vabbè, è già un tormentone quello della paghetta, no? La paghetta, pagina 2 del Corriere della Sera, Giuseppe Guastella: avendo parlato con mio padre di questa situazione, devi dirmi quanto scaliamo al mese dal mio stipendio. Così, battendo cassa, uno dei due figli, Riccardo Bossi, ha determinato come solo il figlio del capo sa e può fare. È una mail che ha spedito all'ex tesoriere Belsito, che è finita ora nell'inchiesta dei PM milanesi. L'idea è che tra il 2008 e il 2011 fosse data una paghetta che si aggirava intorno ai 5.000 euro al mese per ognuno dei suoi figli, dei due figli, un mensile che garantiva un buon reddito a Riccardo Bossi, 33 anni, e che invece con Renzo Bossi si andava a accumulare ai 12.000 euro lordi di stipendio che percepisce da consigliere regionale della Lombardia. Si tratta in tutto, secondo i calcoli, di circa 500.000 euro percepiti, secondo questa paghetta, 5.000 euro al mese in 3 anni. E poi le carte, il noleggio dell'auto, le multe, eccetera. Insomma, la situazione pare abbastanza questa. Clima all'interno della Lega, beh, pessimo all'interno della cerchia, delle mura, un po' impenetrabile ai cronisti. All'esterno invece è un po' non ci crediamo, Umberto Bossi, ne parleremo con Matteo Salvini tra l'altro alle 8:20. Per esempio, pagina 3 del Corriere, Marco Cremonesi: il capo osannato stavolta resta solo. Tra l'altro un Umberto Bossi che pare abbia scoperto e si sia infastidito parecchio quando è arrivato l'avviso di garanzia. Dice: dov'è Renzo? Mio figlio ha scoperto che è in questo momento in vacanza in Marocco con la fidanzata e l'ex assessore della Lombardia Monica Rizzi. Reazione di Umberto Bossi: come sarebbe? Come in vacanza? Come in Marocco? perché in Marocco? Questo secondo il retroscena di Marco Cremonesi sul Corriere della Sera. E per il secolo XIX a Trota suo fratello paghetta da 5.000 euro. Ecco, i titoli si sprecano, anche un po' l'ironia su questa cosa della paghetta. Secondo Repubblica, a pagina 3, Maroni ha parlato. Maroni ha parlato, ovviamente sono sempre retroscena, perché ufficialmente non ci sono grandi dichiarazioni, non ci sono dichiarazioni pubbliche. Anche il post che Maroni ha messo su Facebook, basta ciarlatani e ladri per la nuova Lega, in realtà pare sia stato messo prima dell'avviso di garanzia. Insomma, era già previsto, era la linea della nuova Lega. Molti giornali lo legano invece come dichiarazione all'avviso di garanzia. Però sta di fatto che, secondo Repubblica, Alberto D'Argenio, Maroni pensa alla New Co. Con me fuori ladri cambierò il vecchio gruppo. Insomma, una Lega che dovrà essere nuova, una new company, un nuovo partito nel quale certe cose non capiteranno più. E poi deve lasciare Umberto Bossi la presidenza? Non credo, tono malizioso, non lo so, un altro mormorio. E Renzo Bossi dovrebbe essere espulso? Non lo so. Insomma, questo è un po' il clima attendista, anche se Repubblica a pagina 4, girando pagina, titola la fatua di Manuela, la moglie di Umberto Bossi. Paolo Berizzi, inviato a Gemonio, nel fortino della Roccaforte, nella casa di Umberto Bossi, raccoglie, non si sa se direttamente o comunque, questa posizione di Manuela Marrone, la moglie di Umberto Bossi: se ce ne andiamo noi, finisce anche la Lega. È il clima da ultimi giorni di Pompei, secondo Paolo Berizzi a Gemonio. Questo è, secondo la stampa, il Senatur resta solo, secondo Vittorio Feltri sul Giornale, ora rischia di sparire davvero tutta la Lega. La situazione politica, certo, la notizia politica del giorno è quella dell'inchiesta che punta in alto, punta appunto a Umberto Bossi e figli. L'altro tema politico del giorno: ieri c'è stato l'incontro di 3 ore tra il centrodestra con Silvio Berlusconi, Angelino Alfano, Gianni Letta e il premier Mario Monti. Non si può staccare la spina ora, così titola Il Sole 24 Ore, pagina 11. Barbara Fiammeri racconta l'incontro di 3 ore sintetizzato da Silvio Berlusconi, da un come è andata quando si è presentato poi in Parlamento. Vedete qui, ha detto ai suoi parlamentari, sono qui a votare la fiducia. Come dire, se voto la fiducia vuol dire che non si può staccare la spina ora e bisogna andare avanti. In realtà anche qui ci sono dei retroscena che parlano di incontri, di un incontro a tratti teso. Secondo Libero, Silvio prova a fare il duro, le ho cantate al professore. Quando si è presentato in Parlamento ha detto appunto questa frase, racconta anche Libero, come è andato l'incontro, se sono qui a votare la fiducia. Come dire, vuol dire che bisogna andare avanti. Però in realtà su giustizia, sulla RAI, si parla di situazione tesa, tanto che la tensione ci sarebbe anche da parte di Mario Monti. Sia Libero sia Repubblica raccontano, per esempio, che a un certo punto in questo incontro di 3 ore Mario Monti avrebbe sfoderato 2 cartelline a Silvio Berlusconi. Sentiamo per esempio cosa scrive Francesco Bei su Repubblica, pagina 11. Monti tira fuori dal cassetto a un certo punto, quando ci sono le rassicurazioni di Berlusconi, andiamo avanti, tira fuori l'arma segreta, 2 cartelline di colore diverso. Nella prima ci sono decine di lanci d'agenzia di esponenti del PDL contro le politiche del governo e contro Monti. Dalla Santanchè, la Russa, Brunetta, Corsaro, Crosetto, Ronchi. Berlusconi non sa cosa dire, prova a rilanciare, ma noi siamo sempre stati responsabili, dice. Poi, a un certo punto, Monti tira fuori la seconda cartellina, con i ritagli del giornale, degli articoli del giornale. Sono gli articoli editoriali contro il governo delle tasse, parla di campagna di stampa aggressiva. Tanto che Libero ironizza, insomma, fa come Fini. Quando Fini incontrava Berlusconi ai tempi prima della rottura, Fini portava gli articoli da Berlusconi dicendo guarda qui i tuoi giornali, nel senso soprattutto il giornale, guarda come mi trattano con la campagna stampa, eccetera, la casa di Monte Carlo e così via. Insomma, una gelida tregua, così è sintetizzato l'incontro da Repubblica tra il professore e il cavaliere, una gelida tregua. E infatti sul Fatto Quotidiano uno degli esponenti del PDL, in questo caso l'ex ministro Altero Matteoli, intervistato da Paola Zanca, pagina 4, dice: basta, forza di dire sì, le urne del Popolo della Libertà si sono svuotate. Matteoli dunque fa parte di quel centrodestra un po' in fibrillazione che dice non si può votare tutto a pacchetto, a scatola chiusa, poi i nostri elettori ci puniscono alle urne, dobbiamo smetterla di votare tutto. Io non ho paura delle parole, non ho intenzione di farmi ridere dietro alle elezioni e quindi abbiamo perso, è stata una sconfitta quella delle amministrative, gli elettori ci hanno dato un avvertimento chiaro, si sono astenuti o hanno votato le liste civiche, se continuiamo così dall'avvertimento rischiamo di passare al voto contrario. Insomma, Altero Matteoli dice: diciamo che il centrodestra è morto, noi abbiamo la febbre, la Lega la broncopolmonite. E dimostra un po' la fibrillazione di un centrodestra che vuole ovviamente smarcarsi dal governo Monti, anche se per il momento Berlusconi dice: sono qui a votare la fiducia, dunque tutto bene. Meno bene va in Grecia, in Europa e dintorni. In Grecia la gente sta facendo una delle cose tipiche e un segnale che è un allarme abbastanza serio. Sta assaltando in maniera pacifica i bancomat per ritirare i contanti, perché invece delle banche preferisce il materasso, i soldi lì. Allora Mario Draghi della BCE dice: vogliamo la Grecia nell'euro, tutti gli occhi sono puntati a Francoforte, dove peraltro ci sono anche delle contestazioni in questi giorni. Il Manifesto mette in prima pagina il titolo francofortino, migliaia di indignati arrivano a Francoforte proprio per assediare la Banca Centrale Europea. Sta di fatto che Mario Draghi ribadisce: vogliamo la Grecia nell'euro, ma in Grecia sta succedendo un qualcosa di preoccupante. Abbiamo ormai accertato che si dovrà tornare al voto, per il momento a un magistrato è stato affidato il governo per questa transizione di un mese, si rivoterà. Ma i greci hanno paura, le voci di fuoriuscita dall'euro, di possibile svalutazione della nuova moneta, che poi sarebbe la vecchia dracma, fino al 60-70%, hanno portato a un vero e proprio assalto ai bancomat. Grecia, fuga di capitali prima del voto, così titola Il Sole 24 Ore a pagina 4, con l'inviato Vittorio Darold. Ad Atene sarebbero stati ritirati tra lunedì e martedì 1,2 miliardi di euro dai conti correnti, pari allo 0,75% dei depositi totali, mentre il presidente del Consiglio di Stato, che è appunto colui, Panagiotis Pikramennos, che guiderà, sarà il premier greco ad interim fino al 17 di giugno. Tutti i giornali e tutti gli inviati si concentrano su questo aspetto, anche Ettore Livini di Repubblica in prima pagina, pagina poi 9 continua il suo editoriale, corsa a ritirare i soldi banca, poveri sì, fessi no, e i greci davanti allo spettro del ritorno alla loro vecchia valuta nazionale hanno deciso di affidare i loro risparmi alla più solida e antica delle casseforti, il materasso, ecco qui per l'appunto, abbandonando così i forzieri delle banche. Lei lascerebbe i suoi soldi in banca sapendo che dalla sera alla mattina potrebbero cambiare nome e perdere il 60% del loro valore, mi dice con l'aria di chi è lì per caso Yannis Stoforos, prelevando 500 euro da un bancomat di Atene. Domanda retorica. Infatti da 48 ore a questa parte ad Atene è scattata la grande fuga dai conti correnti. Anche il giornale titola così: quei bancomat presi d'assalto per il terrore della bancarotta. Davvero non un bel segnale. In Italia noi parleremo invece della vicenda Equitalia, il rapporto con le tasse, con Monti che ieri ha detto l'insofferenza è legittima da parte degli italiani, ma ci vuole più rispetto per Equitalia, ci vuole solidarietà per i dipendenti. Ieri è arrivata anche una rivendicazione di questo FAI, ma una rivendicazione che si è rivelata falsa, nella quale si minacciava Mario Monti e si minacciava anche il numero uno di Equitalia Sud. Insomma, già gli inquirenti e gli investigatori hanno avuto dubbi quando c'è un volantino in cui si minaccia di colpire una persona preannunciandone il nome e i cognomi. Sta di fatto che viene definito falso questo volantino, ma le minacce certo e la tensione sociale c'è. Ne parleremo Alle 8.30 io vorrei di cronaca segnalarvi questa intervista che trovate su Repubblica. Oggi sono 40 anni esatti, 17 maggio 72, in cui fu ucciso il commissario Luigi Calabresi. Delitto per il quale lotta continua, è stati condannati Bompressi, Sofri e Giorgio Pietrostefani sono stati condannati. Oggi c'è un'intervista di Massimo Pisa su Repubblica al questore di Milano. Il questore apre alla possibilità di mettere una lapide per Pinelli. Chi era Pinelli? Giuseppe Pinelli era l'anarchico che fu fermato dopo l'attentato di Piazza Fontana, fu portato in questura a Milano e morì dopo un volo dalla finestra della questura in circostanze mai del tutto chiarite. Fu detto per un malore durante alla conclusione del processo. In realtà da lì iniziò la campagna mediatica e di odio nei confronti del commissario Calabresi, che fu ritenuto uno dei responsabili della invece uccisione di Pinelli e fino appunto all'omicidio Calabresi. Ebbene, il questore intervistato, Alessandro Marangoni, questore di Milano, dopo 42 anni, 5 mesi dal volo mortale del ferroviere anarchico Pinelli, dice: siamo pronti a mettere una lapide per Pinelli. Tra l'altro parte questa intervista dalle parole della vedova Calabresi, che incontrando la vedova Pinelli disse di non avere nulla in contrario a una lapide. E allora il questore dice: guardi, per il commissario Calabresi noi abbiamo il nostro dolore, quello di Gemma, cioè della moglie di Calabresi, e dei figli è molto più profondo, ma se la vedova disse quelle cose su Pinelli lo fece con consapevolezza, mi colpì molto la loro stretta di mano, un atto concreto. La verità ha bisogno di questi gesti e dunque ci penseremo partendo da quelle parole di Gemma. Faremo una profonda riflessione perché siamo lo Stato. Io rappresento i 4.000 poliziotti di Milano, la polizia italiana ne conta 100.000, quindi dobbiamo fare un ragionamento generale. Ma certo lo faremo. Dunque l'apertura sulla targa eventuale per Pinelli, pronti a un gesto di riconciliazione. Chiudo con questa notizia che è stata data da Confcommercio, che ha analizzato tutte le strade, le opere bloccate in Italia e che oggi dà la stura a tutti i giornali per titolare: si viaggia in città come 3 secoli fa, siete in macchina in questo momento, sappiate che si viaggia a passo di lumaca, la media in genere di andare nelle città a 15 km all'ora, nell'ora di punta a 7 km all'ora, alla fine del 700 si andava con le carrozze a cavallo più o meno con la stessa media, quindi rilassatevi, pensate di essere alla fine del 700, c'è la rivoluzione francese, evviva!